Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Ben piantati nel mezzo della settimana, al mercoledì, per questo appuntamento quotidiano fra le 19 e le 20 in compagnia di Giulio Caperdoni, raggiungibile all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. E per qualche ulteriore dettaglio avete a disposizione myspace.com/eclettica. Tutte le informazioni relative a questa trasmissione, comprensive delle playlist e anche di come recuperare il podcasting. Fa un caldo d'inferno a Martirio, ma sui giornali c'è una notizia da brivido. Sapete chi ha passato tutta martedì notte per strada? Ve lo dico io. Quell'odiosa della signora Lecciuga. Tremava tutta, o forse era il riflesso delle falene fra i salici a incresparle la pelle come un drappo funebre nella burrasca. Comunque sia, all'alba si è visto che se l'era fatta sotto. Allora è chiaro, la normalità da qui si è proprio data. Secondo me per sempre. Dio solo sa se non ce l'ho messa tutta per capire come va il mondo. Addirittura me lo sentivo che poteva girare bene. Ma dopo quello che è successo, mi sa che tanto bene non va. Insomma, che cazzo di vita è questa? È venerdì, adesso, qui nell'ufficio dello sceriffo sembra un venerdì a scuola, e quel cazzo di scuola, meglio che non me la nominate. Aspetto seduto tra fasci di luce che piovono giù da una fila di porte, nudo, tranne che per le scarpe e le mutande di ieri. Mi sa che sono il primo della giornata finora. Intendiamoci, mica sono nei guai. Io con martedì non c'entro niente, però starei meglio da un'altra parte. Ve lo ricordate, no? Clarence, il negro che si è visto al telegiornale l'inverno scorso, lo psicopatico che si era appisolato proprio in quella sala tutta legno davanti alla telecamera. Al telegiornale hanno detto: guardate quanto si preoccupa degli effetti dei suoi crimini. Per effetti, secondo me, intendevano le accettate. L'avevano tosato come un animale, il vecchio Clarence, e bardato con la divisa da ospedale che mettono gli psicopatici. Portava un paio di occhiali spessi come fondi di bottiglia, come quelli di quei tipi tutto gengive e niente denti. In tribunale gli hanno costruito una gabbia tipo zoo e l'hanno condannato a morte. Questo era l'incipit di Vernon Godlittle di DBC Pierre. Thank you. standing orders in this platoon. One, take good care of your feet. Two, try not to do anything stupid like getting yourself killed. I sure hope I don't let him down. Era l'inedito degli Hot Chip estratto dal DJ Kix di loro responsabilità, ma soprattutto volevo sottolineare il primo brano che vi siete ascoltati all'inizio del volume di quest'oggi subito dopo l'Incipit. Un brano che conoscete nella versione originale dei Coldplay, che avete sentito in questa versione un po' come, così, lo stile me lo ricordava, un po' come Johnny Cash negli ultimi anni della sua vita rifaceva grandi classici. Nel caso in questione lei è una donna, ha avuto, non dico una grande carriera in passato, ma una grande canzone che è conosciuta da tutti. La sua formazione si chiamava Four Non Blondes, lei si chiama Jeanette Napolitano e ci ha regalato questa perla che è sicuramente migliore, a mio soggettivissimo giudizio, dell'originale. Eclettica, che ora prosegue con il gruppo che si è sciolto in pratica poco dopo che si era formato, l'American Love. underneath the third class seat. Your yellow hair and purple eyes are bleeding defeat. And your mother always told you that freedom was just a lie. So I'm here to show you what life can be like. It's a day in the life of you. There's no point in feeling blue. Don't tangle my words, I love you. It's a day in the life of you. Well, now you're there and you laugh and smile so gleefully. There's an almost holy dancing in my soul with tears on my cheeks. Life is tragic and cruel, there's fire in the willow trees. And life is tragic and small, cause you forgot about me. It's a day in the life of you. There's no point in feeling blue. Don't tangle my words, I love you. It's a day in the life. Sto qui a fissarmi le Nike, modello Jordan New Jacks, non so se mi spiego. Quasi quasi gli do una ripulita con lo sputo, ma forse fatica sprecata, considerato che sono nudo. Poi ho le dita appiccicose. Questo inchiostro non lo levi nemmeno con la bomba atomica, giuro. Resterebbero gli scarafaggi e questo cazzo di inchiostro per le impronte. Un'ombra gigantesca si fonde col buio del corridoio, seguita a ruota dalla proprietaria. Una signora, diciamo. Mi viene incontro e la luce di una porta aperta colpisce la scatola del takeaway che ha in mano, insieme al sacco dei miei vestiti e al telefono che cerca di tenere appiccicato la bocca. Avanza lenta, in un bagno di sudore, i lineamenti ammassati al centro della faccia. Anche in divisa si vede lontano un chilometro che è una Guri. È insieme ad un altro agente, ma lei gli fa il segno di andare via. Ai preliminari ci penso io, ti chiamo poi per la deposizione. Riaccosta il telefono alla bocca e si schiarisce la gola. Le esce una vocetta stridula. Grr, ma chi dice che sei deficiente? Ti spiegavo soltanto che staticamente le teste di cuoio riescono a limitare il bilancio delle vittime. Gracchia talmente che la scatola le casca a terra. Il pranzo, borbotta chinandosi. Insalate basta, uno schifo, giuro su Dio. Quando mi vede, chiude la telefonata. Mi tiro su per sentire se mia madre è venuta a prendermi, ma niente da fare. E ti pareva, questo per dire quanto sono furbo. Però continuo ad aspettare. Che genio, cazzo. Vernon Genius Little. La gente mi butta i vestiti sulle ginocchia. Da questa parte. Vatti a fidare di mia madre. Sarà in giro a spremere compassione. Tipico di lei. Beh, Vern è praticamente distrutto, dirà. Vern mi chiama quando prende il caffè al mattino con le amiche. È per far vedere quanto cazzo siamo uniti. Ma fra noi le cose vanno veramente di merda. Se almeno mi arrivava col libretto delle istruzioni, la vecchia, capivo che prima o poi bisognava mandarla a fanculo, sicuro. Lo sanno tutti che con la storia di martedì in fondo c'entra solo Jesus. E lei che fa? Solo perché collaboro alle indagini si fa venire la sindrome di Tourette, o come cazzo si chiama quella roba per cui ad un certo punto ti sbracci come un ossesso. Questo era ancora l'incipit di Vernon Godlittle di DBC Pierre. Still not there. I got to see a lot of the countryside. We would take these real long walks. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. And we were always looking for this guy named Charlie. Call me down. I sat on the scar. ruota tutta attorno al pianoforte, avete sentito, a parte qualche effetto nel finale. The Ghost of You Lingers è questo il titolo del pezzo che anticipa il nuovo album degli Spoon, formazione texana che ben conoscono gli ascoltatori di Eclettica. Eclettica che si chiude in questa sua prima parte, che poi riprenderà dopo il blocco pubblicitario, con la collaborazione tra Final Fantasy e l'artista canadese Montag, che stiamo ascoltando dalla scorsa settimana. To stay, I won't leave you.